La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Ogni Stato deve avere un simbolo. I costituenti scelgono il tricolore, la bandiera italiana, che ha radici nella storia risorgimentale, ma che in questo modo diventa il simbolo dell'unità nazionale. Non viene scelta una moneta, non viene scelta una lingua, anche la capitale apparirà in Costituzione soltanto con la riforma del 2001, ma si sceglie nella sua semplicità e nella sua purezza la bandiera, proprio come simbolo dell'unità nazionale. Disposizione, articolo molto semplice, approvato praticamente senza alcuna discussione in Assemblea Costituente. Forse l'unica curiosità che dobbiamo ricordare è l'aggiunta in anni più recenti della bandiera dell'Unione Europea. Perché oggi, quando nelle festività nazionali e nelle festività civili si esibiscono le bandiere, non viene solo esposta la bandiera italiana, ma anche quella dell'Unione Europea, che, curiosità nella curiosità, fino al 1992 mutava al mutare del numero degli stati. Infatti le stelle sulla bandiera indicavano il numero degli stati. Poi col 92 ci si mise d'accordo che sarebbero sempre rimaste 12 stelle, a prescindere dal numero degli stati. Per questa ragione noi abbiamo la bandiera dell'Unione Europea con le 12 stelle dorate in campo azzurro che si affianca nelle cerimonie ufficiali alla bandiera simbolo della Repubblica Italiana.